بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Perle di sapienza, selezione dal quaderno islamico numero 40. I pilastri della sapienza. Il vero sapiente si riconosce dal fatto che ha il pieno possesso dei cinque pilastri della sapienza. Il primo pilastro della sapienza è il saper tacere. Il secondo è il saper ascoltare. Il terzo è saper ricordare. Il quarto è saper ragionare. Il quinto è il saper far sapere. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica ed abbia in gloria, a proposito dell'uomo sapiente: il vero sapiente è colui che, se la gente lo cerca per imparare, li arricchisce con la sua scienza, mentre quando la gente non lo cerca, ne approfitta per arricchire se stesso. Il timore di Allah è la chiave del sapere, la liberazione da ogni dipendenza e la salvezza dalla perdizione. Quando ti rendi conto della maestà infinita del Creatore, tutto il creato appare nulla ai tuoi occhi. Molte volte chiedi ad Allah una cosa ed Egli non te la concede, ma in cambio ti dona una cosa migliore. Se colui che si prosterna nell'adorazione sapesse da quanta grazia viene ricoperto, non solleverebbe mai la sua fronte dalla terra. I respiri dell'uomo sono i suoi passi verso la morte. Chi baratta la vita futura per la vita di quaggiù fa la sua rovina sia in questa che in quella. Ammonire una persona davanti alla gente significa disonorarla. Accetta le scuse del tuo fratello e, se non ne ha alcuna, trovagliene una tu. Il padre ha il dovere di dare un buon nome a suo figlio, impartirgli una buona educazione e insegnargli il sublime Corano. Rispettate gli anziani affinché i bambini vi rispettino. L'individuo che da piccolo fa domande in età adulta sarà in grado di dare risposte. Il più incapace degli uomini è chi non riesce a farsi degli amici, ma più incapace di quest'ultimo è colui che non sa mantenere le amicizie. Nulla deve distrarti dal darti da fare per la vita futura, perché il tempo a disposizione è comunque sempre assai poco. Non c'è ricchezza più grande dell'intelligenza, miseria peggiore dell'ignoranza, non c'è segregazione peggiore dell'egocentrismo e non esiste vita più piacevole di quella condotta mantenendo un buon carattere. L'acquisizione di un buon carattere dipende da tre cose: astenersi da ciò che Allah ha proibito, guadagnarsi da vivere in modo lecito, procurare una vita agiata alla propria famiglia. Non si acquista il sapere standosene con le mani in mano. La perfezione della fede sta nell'acquisire il sapere e metterlo in pratica, e cercare il sapere è per te più doveroso che cercare il denaro. Le parole di coloro che sanno, quando sono giuste, sono medicina, e quando sono sbagliate, sono veleno. La ricompensa che merita colui che sa è maggiore di quella che merita chi digiuna, chi prega e chi si sforza sul sentiero di Allah. La gente è nemica di ciò che non conosce. Il fondamento della legge divina è l'ordinare il bene, proibire il male ed eseguire i precetti. Che nessuno di voi obblighi un fratello a chiedere quando sa di che cosa egli abbia bisogno. Rifiutarsi di aiutare una persona bisognosa provoca la perdita del benessere. Accontentarsi di ciò che si possiede è una ricchezza inesauribile. Consumare più del necessario è sprecare. Consigliarsi con le persone dotate di intelletto è segno di maturità. Beato è chi non ha vane aspirazioni materiali e sfrutta bene i giorni della sua vita. Quando il mondo viene incontro a qualcuno, gli presta meriti non suoi e quando gli volta le spalle, lo priva dei meriti suoi. La lingua del sapiente segue il suo cuore e il cuore dello stolto segue la sua lingua. Prima di parlare, pensa, in tal modo non cadrai in errore. Parla e si saprà chi sei, perché l'uomo è nascosto sotto la sua lingua. Il peggiore degli uomini è chi vede bene i difetti degli altri, ma non è in grado di vedere i suoi. Non considerare mai assoluta la tua opinione, poiché chi si comporta così cade in rovina. Due sono le cose che rovinano l'uomo: la paura della povertà e la superbia. È maleducato chi domanda all'amico: dove vai? Oppure: cosa fai? Se hai bisogno della scienza di qualcuno, non guardare i suoi difetti, perché così facendo perderesti i benefici della sua sapienza. Disse Luqman: dimostra benevolenza sincera a chi desidera qualcosa da te e concedi il favore prima che ti venga chiesto, perché se costringi a chiederlo riceverai dal rossore della faccia del richiedente il doppio di quello che gli avrai dato. La più grande delle tribolazioni è la compagnia di una persona con cui non vai d'accordo e che non puoi lasciare. La virtù sta nella vita religiosa all'interno della comunità, ma la sicurezza sta nella solitudine. Chi ha raggiunto la piena consapevolezza islamica si riconosce dal suo modo di parlare, che è cordiale e gentile, dal suo accettare le giustificazioni di chi si scusa con lui, dal suo essere misericordioso con tutti, buoni e cattivi. Chi ha raggiunto la piena consapevolezza islamica si riconosce dal fatto che accetta con serenità quello che nel corso delle cose destinate ad accadere fa andare in collera le persone ignoranti. La creatura umana viene tribolata e messa alla prova in misura proporzionata alla sua fede. È meglio nascondere le proprie buone qualità che quelle cattive. Solo se speri solamente nel tuo Signore e temi solamente i tuoi peccati, allora sei veramente un servo sincero di Allah. Il tuo capitale da investire per il guadagno nella vita futura è costituito dal tuo cuore e dal tuo tempo. Perciò fa sì che il tuo cuore non si occupi in supposizioni e dubbi e che il tuo tempo non vada perduto dietro cose che non ti riguardano. La noncuranza del proprio destino ultraterreno facilita all'uomo il guadagno, le attività, la posizione sociale, mentre la consapevolezza del proprio destino ultraterreno rende difficili queste cose. Chi segue il sublime Corano e la nobile Sunna del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, emigra verso Allah con il suo cuore e calca le orme dei compagni del profeta, che Allah si compiaccia di loro, è inferiore a questi ultimi solamente nel non aver visto il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Una delle principali porte di accesso ad Allah è il risveglio dall'indifferenza. Chi si ribella ad Allah è migliore di chi finge di amarlo, perché il primo cerca la via del pentimento, mentre il secondo va barcollando nel groviglio delle sue finzioni. Chi disprezza l'ortodossia sarà vittima dell'eresia. Se sotto il vistoso turbante del dotto non c'è sapienza frutto dell'esperienza, quello è il turbante di Satana. La scienza religiosa deve essere coltivata per accrescere il proprio timore di Allah e per giovare al prossimo. Se non ha questi fini, è una cosa come un'altra. È più facile arrivare ad Allah grazie alla virtù del silenzio che parlando per 100.000 anni. Il miglior momento è quello in cui non pensi male di nessuno. Se non vuoi andare in perdizione, non misurare gli altri su te stesso. Devi misurare te stesso sugli altri per conoscere le loro virtù e le tue mancanze. Chi osserva i difetti degli altri diventa cieco ai difetti propri. I casi di chi diffama gli altri sono tre. Il primo, si crede migliore di loro e in questo caso è peggiore, come fu Satana rispetto ad Adamo. Secondo, si crede uguale a loro e disprezzandoli disprezza se stesso. Terzo, si crede inferiore e allora non disprezzi chi è superiore. Frequenta un fabbro e sarai coperto di fuliggine. Frequenta un profumiere e te ne porterai via il profumo.